ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo. Il direttore uscì. Mi fece l'onore di prendermi sotto braccio e mi condusse in disparte. Kurz è giù, molto giù, disse. Ritenne a questo punto necessario anche sospirare, ma trascurò di mostrarsi attendibilmente addolorato. Noi abbiamo fatto per lui tutto quello che potevamo fare, no? Ma non dobbiamo nasconderci la realtà. Il signor Kurz alla compagnia ha fatto più male che bene. Non ha capito che i tempi non erano maturi per un'azione energica. Cautela, cautela, è questo il mio motto. Dobbiamo ancora andare cauti qui. Il distretto ora ci sarà chiuso per un certo periodo e questo è deplorevole, e l'intero commercio finirà per soffrirne. Non nego che ci sia una notevole quantità d'avorio qui, anche se in massima parte fossile. Dobbiamo salvarlo per qualsiasi evenienza, ma guardi com'è precaria la nostra posizione. E sa perché? Perché il metodo di Kurz è sbagliato. Lei, dissi guardando la riva, lo definisce un metodo sbagliato? Senza alcun dubbio, esclamò con calore il direttore. Lei no? Non c'era nessun metodo, mormorai dopo un po'. Precisamente, precisamente, proprio così, esultò il direttore. E io lo avevo previsto. Questo dimostra una totale mancanza di discernimento ed è mio dovere farlo notare a chi di dovere. Ah, certo, dissi. Quel tizio, come si chiama, il fabbricante di mattoni, le preparerà di certo un rapporto leggibile. Per un attimo il direttore parve sconcertato e a me sembrava di non avere mai respirato un'atmosfera così nauseante. Mi rivolsi mentalmente a Kurz per cercare sollievo. Sì, sì, signori, per cercare sollievo. Vede, io penso tuttavia, dissi, che il signor Kurz sia un uomo notevole. E lo dissi con enfasi. Mi guardò. Mi lasciò cadere addosso un'occhiata fredda e severa il direttore. Disse con molta calma, lo era. E mi voltò le spalle. Il mio momento di favore era finito. Ero considerato alla stessa stregua di Kurz, era evidente. Un fautore di metodi per i quali i tempi non erano maturi. Uno che sbagliava. Ma era pur sempre qualcosa poter almeno scegliersi i propri incubi. In realtà mi ero rivolto alla foresta, non al signor Kurz, che, come ero dispostissimo ad ammettere, era ormai praticamente sepolto. E per un momento mi parve d'essere anche io sepolto, in un'enorme fossa piena di segreti abominevoli. Sentivo un peso intollerabile opprimermi il petto. L'odore della terra bagnata, la presenza invisibile della corruzione vittoriosa, l'oscurità di una notte impenetrabile. Il russo mi diede un colpetto sulla spalla. Lo udii borbottare e balbettare qualche cosa come: fratello marinaio, non potevo nascondere la conoscenza di cose che danneggerebbero il buon nome del signor Kurz. Io aspettavo. Per lui, evidentemente, il signor Kurz non era già nella fossa. Per lui, sospetto, il signor Kurz era uno degli immortali. Beh, dissi infine, parli chiaro. Si dà il caso che io sia un amico del signor Kurz, in un certo senso. E allora il russo dichiarò, in tono molto formale, che se non fossimo stati io e lui della stessa professione, avrebbe tenuto la cosa per sé, senza badare alle conseguenze. Vede, lui sospettava che ci fosse una attiva ostilità nei suoi confronti da parte di questi bianchi che... E ha ragione, dissi ricordando una certa conversazione che mi era accaduto di ascoltare. Secondo il direttore, lei dovrebbe essere impiccato. Sulle prime, il vederlo preoccuparsi per questo mi divertì. Farei forse meglio ad andarmene in punta di piedi, disse allora, serio. Ormai non posso più fare niente per Kurz e loro non ci metterebbero molto a trovare un pretesto. Che cosa glielo può impedire? Il posto militare più vicino è a 300 miglia. Beh, parola mia, intervenni. Le conviene davvero filare se ha qualche amico tra i selvaggi della zona. Ne ho tantissimi, rispose. Sono gente semplice e io, sa, non ho bisogno di nulla. Rimase un attimo immobile a mordersi il labbro e poi... Io non voglio che capiti qualcosa di male ai bianchi che sono qui, ma stavo ovviamente pensando al buon nome del signor Kurz. Lei però è un fratello marinaio e... Stia tranquillo, dissi dopo un po'. Con me il buon nome del signor Kurz non corre rischi. Non sapevo quanto fosse sincero. Allora, abbassando la voce, il russo mi confidò che era stato Kurz a ordinare l'attacco contro il nostro battello. Certe volte, vede, non sopportava che lo portassero via. E poi di nuovo, però sono cose che io non capisco, perché sono un uomo semplice io. Pensava così di farvi scappare spaventati e che allora avreste lasciato perdere, convinti che lui fosse morto. Io non riuscii a fermarlo e... Oh, ne ho passati tanti di momenti terribili in questo ultimo mese. Beh, dissi, adesso però lui sta bene. Sì, sì, mormorò con un'aria non molto convinta. Grazie, dissi. Terrò gli occhi aperti. Ma silenzio, eh? Mi incalzò con ansia. Sarebbe tremendo per il suo buon nome se qualcuno qui... Promisi con molta solennità la discrezione più assoluta. Ho una canoa con tre negri che mi aspetta non molto lontano da qui. Me ne vado. Mi potrebbe dare un po' di cartucce per il Martini Henry? Potevo, e gliele diedi, con la necessaria segretezza. E lui, strizzandomi l'occhio, si prese anche una manciata del mio tabacco. Tra marinai, sa, buon tabacco inglese. Arrivò sino alla soglia della timoniera e poi si voltò. Senta, non ha per caso anche un paio di scarpe che non le serve? Alzò una gamba. Guardi. Sotto i piedi nudi le suole erano legate con lacci di corda pieni di nodi. Recuperai un vecchio paio che contemplò ammirato prima di infilarselo sotto il braccio sinistro. Una delle sue tasche, quella color rosso vivo, era gonfia di cartucce, mentre dall'altra, blu scuro, sbucava l'indagine di Towson, eccetera. Pareva dunque considerarsi perfettamente equipaggiato per un nuovo incontro con la natura selvaggia. Ah, mai più. Mai più incontrerò un uomo come lui. Avrebbe dovuto sentirlo quando recitava poesie, ed erano anche sue, mi disse. Poesie sue. Roteò gli occhi nel ricordare tutte quelle gioie. Oh, come mi ha allargato la mente, Kurz. Arrivederci, gli dissi. E lui mi strinse la mano e sparì nella notte. Certe volte ancora adesso mi domando se l'ho visto davvero. Se è possibile incontrare mai un simile fenomeno. Quando mi svegliai, poco dopo la mezzanotte, mi tornò in mente il suo avvertimento e quell'accenno a un pericolo che nel buio stellato mi parve così reale da convincermi ad alzarmi e a dare un'occhiata in giro. Sulla collina ardeva un grande fuoco che illuminava a intervalli un angolo sbilenco della sede della stazione. Un agente, con un picchetto di alcuni dei nostri neri, appositamente armati, montava la guardia all'avorio, ma nelle profondità della foresta, rossi bagliori che ondeggiavano e parevano sprofondare nel terreno e di nuovo levarsi tra confuse forme colonnari di un nero intenso, rivelavano la posizione esatta dell'accampamento dove gli adoratori del signor Kurz stavano vegliando irrequieti. Il battito monotono di un grosso tamburo riempiva l'aria di colpi soffocati e di una costante vibrazione. Dal muro nero e piatto dei boschi giungeva, come un ronzio di api da un alveare, il brusio ininterrotto di un insieme di uomini che salmodiavano, ciascuno per conto proprio, qualche magico incantesimo, con uno strano effetto soporifero sui miei sensi svegli solo a metà. Credo di avere sonnecchiato, chino sulla battagliola, finché una brusca esplosione di urla, lo scoppio travolgente di una frenesia repressa e misteriosa, mi svegliò in uno stato di smarrito stupore. L'urlo cessò all'improvviso e ricominciò quel brusio in sordina, con un effetto di silenzio percepibile e rasserenante. Gettai con noncuranza un'occhiata all'interno della cabina. C'era una luce accesa, ma non c'era più il signor Kurz. Penso che se avessi creduto ai miei occhi mi sarei messo a urlare. ma in un primo tempo non ci credetti, perché sembrava così impossibile. Avevo i nervi terribilmente tesi da una sorta schietta paura, da un puro astratto terrore, che però non aveva alcun rapporto con forme riconoscibili di pericolo fisico. Ciò che rendeva così insopportabile questa emozione era, come definirlo, lo shock morale che avevo subito, come se qualcosa di totalmente mostruoso, intollerabile alla mente e odioso all'anima, mi fosse stato spinto addosso senza che io me lo aspettassi. Questo, naturalmente, durò soltanto una minuscola frazione di secondo. Dopodiché la consueta sensazione di un concreto pericolo mortale, la possibilità di un assalto improvviso con conseguenti massacri o qualcosa del genere che vedevo incombere, furono letteralmente gradite e rincoranti. Mi calmarono, di fatto, al punto che non diedi nemmeno l'allarme. C'era un agente, tutto abbottonato nel suo holster, che dormiva su un asdraio del ponte a meno di un metro da me. Le urla non lo avevano svegliato. Russava, piano piano, e io lo lasciai al suo sonno e saltai a terra. Non tradii il signor Kurz. Mi avevano ordinato di non tradirlo mai. Era scritto che sarei stato fedele all'incubo che mi ero scelto. Ero impaziente di misurarmi con quel fantasma da solo. E ancora adesso non capisco come mai fossi così restio a condividere con qualcuno la cupezza particolare di questa esperienza. Appena a terra, vidi un sentiero, un largo sentiero nell'erba. Ricordo con quanta esultanza dissi a me stesso: «Non ce la fa a camminare, deve strisciare a quattro zampe, è in mano mia!» L'erba era umida di rugiada. Camminavo svelto, con i pugni stretti. Immagino di avere vagamente accarezzato il progetto di saltargli addosso e di prenderlo a botte. Non lo so, però avevo di questi pensieri cretini. La vecchia col gatto che lavorava a maglia spiccava nella mia memoria come la persona più radicalmente inadatta a occupare l'altro estremo di una storia come questa. Vidi una fila di pellegrini intenti a spruzzare piombo nell'aria con i loro Winchester appoggiati all'anca e pensavo che non sarei mai tornato sul battello e immaginai di vivere solo e disarmato nei boschi sino a età avanzata e altre stupidaggini del genere, capite? E ricordo che confondevo il battito del tamburo con il pulsare del mio cuore ed ero soddisfatto della sua calma regolarità. Continuavo a seguire il viottolo, ma poi mi fermai ad ascoltare. La notte era molto limpida. Uno spazio azzurro scuro, scintillante di rugiada e di stelle, entro il quale spiccavano immobili delle cose nere. Mi sembrò di avere visto muoversi qualcosa davanti a me. Quella notte ero stranamente sicuro di tutto. Finii per lasciare la pista e percorrere in un largo semicerchio e penso proprio che stessi ridacchiando tra me e me, nell'intento di finire davanti a quel piccolo trambusto, a quel movimento che avevo intravisto, ammesso che avessi davvero visto qualche cosa. Stavo girando intorno a Kurz, come in un gioco da ragazzi, e alla fine lo trovai. E se non mi avesse udito venire, gli sarei proprio cascato addosso. Invece riuscì ad alzarsi in tempo. Si levò traballante, alto, pallido, indistinto, come un vapore esalato dal terreno, e ondeggiò un poco, silenzioso e annebbiato, lì davanti a me, mentre alle mie spalle si scorgevano i fuochi tra gli alberi e dalla foresta giungeva il mormorio di molte voci. Ero stato abilissimo a isolarlo, ma quando me lo trovai di fronte, mi sembrò di rinsavire e vidi il pericolo nelle sue proporzioni reali, perché non era certo passato. Se si fosse messo a gridare, lo so, faceva fatica a reggersi in piedi, ma nella sua voce c'era ancora una bella riserva di vigore. «Vada via, si nasconda», mi disse, con quel suo tono profondo che faceva veramente paura. Mi guardai dietro. Eravamo a neanche 30 metri dal fuoco più vicino. Una figura nera si alzò e si fece avanti sulle lunghe gambe nere, agitando le lunghe braccia nere oltre quel chiarore. Portava in testa delle corna, corna d'antilope, penso. Sicuramente era un mago, uno stregone. Il suo aspetto era abbastanza demoniaco. Ma lei, Lei lo sa che cosa sta facendo? Sussurrai. Perfettamente, mi rispose lui alzando la voce per quest'unica parola. Mi arrivò remota e insieme fortissima, come un saluto attraverso un megafono. Se fa baccano, siamo perduti, pensai. Non era evidentemente il momento adatto ad una cazzottata, anche non considerando la mia riluttanza naturale a picchiare quell'ombra, quella cosa errante e tormentata. Lei finirà per perdersi, Kurz, dissi, per perdersi completamente. Capitano, no, a volte questi lampi di ispirazione. Dissi esattamente ciò che dovevo dire, anche se era impossibile che si perdesse più irrimediabilmente di quanto già lo fosse ora, nel momento in cui gettavamo le fondamenta della nostra intimità, destinata a durare fino alla fine e anche oltre. Avevo progetti immensi, mormorò incerto. Sì, lo so, dissi, ma se adesso provo a gridare le fracasso la testa con... E lì vicino non c'era né un bastone né una pietra, e allora la strangolo con le mie mani, dissi correggendomi. Ero alla vigilia di grandi, grandissime cose, implorò, con voce intrisa di avidità e in un tono talmente malinconico da farti gelare il sangue. E ora, per quella stupida canaglia... Guardi che il suo successo in Europa, Kurz, è comunque assicurato, affermai con decisione. Non volevo che mi costringesse a strangolarlo, capite? E del resto, sul piano pratico, sarebbe servito ben poco. Cercavo di spezzare l'incantesimo, il muto, opprimente incantesimo della foresta che sembrava attirarlo al proprio seno spietato, svegliando in lui istinti brutali e dimenticati, richiamando alla sua memoria mostruose e appagate passioni. Soltanto questo, ne ero persuaso, lo aveva spinto oltre il ciglio della foresta, nella boscaglia, verso il bagliore dei fuochi, il battere dei tamburi, il ronzio di incantamenti misteriosi. Soltanto questo aveva deviato la sua anima di fuorilegge oltre i limiti delle aspirazioni autorizzate. Ma vedete, ciò che rendeva paurosa la situazione non era la possibilità di prendersi un colpo in testa, anche se ero perfettamente conscio di questo pericolo, ma il dovermi misurare con una creatura a cui non potevo appellarmi in nome di alcunché, superiore o inferiore. Io dovevo, proprio come i negri, invocare lui, lui in persona, la sua imminente e incredibile degradazione. Non c'era niente, né sopra né sotto, e io lo sapevo. Kurz si era liberato a calci dalla terra. Quel maledetto aveva fracassato la terra a calci ed era solo adesso. E io, davanti a lui, non sapevo se stavo con i piedi piantati per terra o se fluttuavo nell'aria. Vi ho raccontato le parole che ci dicemmo, ho ripetuto le frasi che pronunciammo, sì, ma a che serve? Erano parole comuni, quotidiane, i vaghi suoni familiari che ci scambiamo ogni giorno nella nostra vita. E allora? Avevano dietro, a mio modo di vedere, la terrificante forza evocativa delle parole udite nei sogni, delle frasi pronunciate negli incubi. L'anima. Se qualcuno ha mai lottato con un'anima, quello sono io. E non che stessi discutendo con un pazzo. Mi crediate o no? La sua intelligenza era assolutamente lucida, concentrata, sì, su se stesso con orribile intensità, ma lucida. Ed era in questo, però, la mia unica possibilità. A meno che, naturalmente, non l'avessi ammazzato lì per lì, ma non sarebbe stato molto opportuno a causa del rumore inevitabile. Era però pazza la sua anima, questo sì. Sola, in quella foresta, aveva guardato dentro di sé e, per il cielo, credetemi, era impazzita. Io pure, a causa dei miei peccati, immagino, dovetti subire il tormento di guardarci dentro. Nessuno sfoggio d'eloquenza avrebbe potuto distruggere la fede di un uomo nell'umanità più di quella sua ultima esplosione di sincerità. Lottava anche con se stesso. Io lo vidi, lo udii. Vidi il mistero inconcepibile di un'anima che non conosceva né freno, né fede, né paura e che pure lottava alla cieca con se stessa. Mantenni piuttosto bene il mio sangue freddo, ma quando riuscii finalmente a farlo distendere sul divano, mi asciugai la fronte e mi sentii tremare le gambe come se avessi portato sulla spalla giù da quella collina un carico di mezza tonnellata. E sì, che lo avevo semplicemente sorretto, con il suo braccio ossuto stretto intorno al mio collo, non pesava molto più di un bambino. L'indomani, a mezzogiorno, quando ripartimmo, la folla, della cui presenza dietro quel sipario di alberi ero stato intensamente consapevole per tutto il tempo, rifluì di nuovo dai boschi, riempì la radura, coprì il pendio di una massa di corpi nudi, ansanti, vibranti, bronzei. Io risalii un poco il fiume, poi virai seguendo la corrente e 2000 occhi seguirono le evoluzioni di quel guazzante, rumoroso, vibrante demone fluviale che batteva l'acqua con la sua terribile coda e soffiava fumo nero nell'aria. Davanti alla prima fila, lungo il fiume, tre uomini, impiastricciati di terra rossa dalla testa ai piedi, camminavano avanti e indietro irrequieti. Quando, girando, tornammo alla loro altezza, si voltarono verso il fiume, pestarono i piedi, abbassarono le loro teste cornute, fecero ondeggiare i loro corpi scarlatti. Agitavano verso il feroce demone fluviale un mazzo di penne nere, una pelle rognosa con la coda penzoloni, qualche cosa che sembrava una zucca lasciata a seccare. E a intervalli gridavano tutti assieme sequele di stupefacenti parole che non assomigliavano ad alcun suono del linguaggio umano, e i mormorii profondi della folla, bruscamente interrotti, parevano risposte a qualche satanica litania. Avevamo portato Kurz nella timoniera, perché c'era più aria lì. Sdraiato sul divano, guardava oltre la persiana aperta. Si aprì, in quella massa di corpi umani, una sorta di mulinello, e la donna con i capelli a casco e le guance brune si slanciò in avanti spingendosi sino al ciglio del fiume. Poi allungò le mani, gridò qualcosa e la folla scatenata riprese il suo grido in un coro tumultuoso di suoni articolati, rapidi, ansanti. «Ma lei capisce che cosa dicono?» domandai a Kurz. E lui continuò a guardare oltre me, con quegli occhi feroci e avidi, con un'espressione in cui la malinconia si mescolava all'odio. Non mi rispose, ma vidi aleggiare un sorriso dal significato indefinibile sulle sue labbra spente, che un attimo dopo si contrassero convulse. «Come no?» disse lentamente, boccheggiando come se le parole gli fossero state strappate da qualche potere sovrannaturale. Tirai la corda della sirena, e lo feci perché avevo visto sul ponte i pellegrini tirare fuori i fucili con l'aria di chi già pregusta una parentesi d'allegria. L'ululato improvviso produsse in quella massa compatta di corpi un'abietta reazione di terrore. «Non lo faccia! Non li faccia scappare via spaventati!» gridò qualcuno sul ponte in tono sconsolato. E io tirai più volte la corda. Si sbandarono, e scapparono tutti, saltavano, s'accovacciavano, si scostavano, schivavano il terrore volante di quel suono. I tre dipinti di rosso erano finiti lunghi distesi sulla spiaggia, con la faccia a terra, come se qualcuno avesse loro sparato. Solo la donna, barbara e superba, non batté ciglio e tese tragicamente le braccia nude verso di noi sul fiume cupo e scintillante. Poi quella massa di imbecilli sul ponte cominciò a spassarsela e io non vidi più niente a causa del fumo. La corrente marrone fluiva veloce dal cuore di tenebra, portandoci verso il mare ad una velocità due volte superiore a quella del viaggio d'andata. E anche la vita di Kurz scorreva via rapida, defluendo dal suo cuore nel mare del tempo inesorabile. Direttore era calmissimo. Adesso non aveva più preoccupazioni vitali. Ci includeva entrambi in un'occhiata comprensiva e compiaciuta. La faccenda si era risolta come meglio non avrebbe potuto desiderare. Vedevo avvicinarsi il momento in cui sarei rimasto l'unico superstite del partito dei metodi sbagliati. I pellegrini mi guardavano con disapprovazione. In un certo senso ero ormai annoverato tra i morti. Era strano da parte mia accettare questa associazione imprevista, questa scelta di incubi che mi era stata imposta. nella terra tenebrosa, invasa da fantasmi aridi e spregevoli. Kurtz concionava. Che voce! Risonò profonda fino all'ultimo. Sopravvisse alle sue forze per nascondere nelle pieghe sontuose dell'eloquenza la tenebra sterile del cuore. E lottava, se lottava. Le lande del suo cervello stanco erano abitate da immagini fantasmatiche, immagini di ricchezza e di fama, che ruotavano ossequiose intorno al suo talento inestinguibile per l'espressione nobile ed elevata. La mia promessa sposa, la mia stazione, la mia carriera. Tali erano gli argomenti di queste occasionali manifestazioni di sentimenti eletti. L'ombra del corso di un tempo frequentava il capezzale del vuoto ciarlatano che era adesso, destinato a sepoltura imminente nel terriccio della terra primordiale. Ma l'amore demoniaco e l'odio irrazionale dei misteri che aveva penetrato si stavano battendo per impadronirsi di quell'anima sazia di emozioni primitive, avida di fama menzognera, di distinzione fasulla, di tutte le apparenze del successo e del potere. A volte, infatti, era spregevolmente infantile. Desiderava vedere dei re ad aspettarlo nelle stazioni ferroviarie al suo ritorno da qualche luogo imprecisato e terrificante dove contava di compiere grandi imprese. Tu mostra loro che hai in te qualcosa di veramente redditizio e non ci saranno più limiti al riconoscimento delle tue capacità, mi diceva. Naturalmente bisogna avere dei motivi giusti, sempre. I lunghi tratti che erano come un unico e medesimo tratto, le anse monotone che erano sempre esattamente uguali, scivolavano via dal battello con gli innumerevoli alberi secolari che seguivano con occhi pazienti questo sudicio frammento di un altro mondo, preannuncio del cambiamento, della conquista, del commercio, dei massacri e delle benedizioni. E io guardavo avanti, pilotando. Chiuda l'imposta, mi disse un giorno Kurtz all'improvviso, io non sopporto di guardarla. Obbedì. Ci fu una pausa. Oh, disse ancora, io ci riuscirò a strapparti il cuore. Lo gridò alla foresta invisibile.